Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in un giorno in cui le borse vanno bene, non recuperano tutto, però insomma Parigi guadagna l'1,70, Francoforte il 2, Londra è quella che ha i rialzi più modesti, più 0,60, Milano è in linea, più 1,6%, con pochissimi titoli che perdono tra quelli a maggiore capitalizzazione. Penso a Telecom meno 0,70, Lottomatica meno 0,20, e penso invece a Buzzi Unicem che guadagna il 4,94, e STMicroelectronics il 4,2, Finmeccanica il 3,5, Impregilo il 3,3. È in recupero anche l'euro, è tornato a quota 1,20, siamo a 1,20,60. Dicevo, la giornata oggi si contraddistingue soprattutto per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi all'Assemblea della Confartigianato, e ascolteremo anche quelle che sono le richieste, le preoccupazioni che sono arrivate dagli artigiani. Però insomma Berlusconi ha chiarito che il governo vuole arrivare a un nuovo statuto delle piccole e medie imprese per rendere più facile la creazione di imprese in Italia, e quindi ha definito anche datata la Costituzione, ribadendo che ci sarà bisogno probabilmente di modificare l'articolo 41, quello sulla libertà di impresa, e poi ha detto che insomma se è difficile fare impresa in questo paese è colpa dei comunisti, o meglio della cultura comunista che dagli anni 70 è stata dominante e che guarda con sospetto gli imprenditori. E poi altre reazioni su questo che commenteremo. Avremo anche un approfondimento sul giro d'affari dei mondiali di calcio, che dopodomani entrano in vivo, ma non tanto come il giro d'affari del mondiale in senso stretto, quanto il ruolo delle imprese italiane. Ci sono imprese italiane che hanno partecipato alla creazione di questi mondiali. Avremo un collegamento con Johannesburg, dove si trova il nostro Dario Ricci. E poi come si esce da questa crisi anche da un punto di vista della reputazione, cioè come si fa a comunicare la comunicazione d'impresa in un momento di crisi, che vale sia per le società finanziarie che per le aziende manifatturiere. Se ne è discusso a lungo a Trento durante il Festival dell'Economia, sarà oggi l'occasione anche per ritornare sul tema. È infatti un elemento non da poco riuscire a pensare al danno d'immagine che hanno avuto tutte le società finanziarie, le banche a maggior ragione da questa crisi, anche le banche che obiettivamente poco c'entravano con le cause di questa crisi. E poi insomma, quando si danneggia l'immagine poi è difficile anche recuperare, lo si può fare solo attraverso una comunicazione mirata. Vale appunto per il mondo finanziario, ma anche per le imprese manifatturiere. Pensate solo a quanto è importante la reputazione e l'immagine di un gruppo, di una società, se devi fare un aumento di capitale, quindi chiedere soldi al mercato, oppure se devi reperire liquidità attraverso l'emissione di obbligazioni. Anche lì più la tua reputazione è fondamentale, se no i risparmiatori non ti sottoscrivono il prestito obbligazionario. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche un piccolo approfondimento su un dato di oggi diffuso dall'Aral, che dice in sostanza che gli stipendi nel pubblico impiego sono aumentati in questi anni ben più di quanto non sia cresciuto il privato. L'Aran, infatti, che è l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, oggi ha dato il dato sul periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, dal 2000 a oggi le retribuzioni del pubblico impiego sono aumentate di praticamente del 40%, 39,70, contro retribuzioni del settore privato in aumento solo del 25,7%. Negli ultimi 2 anni i contratti di lavoro poi si sono chiusi in linea con il tasso di inflazione programmato, cioè aumenti del 3,2%, e l'Aran ha anche stimato quale sarà il risparmio per i conti pubblici dal blocco degli aumenti nel settore appunto del pubblico impiego sapete che in finanziaria è previsto che lo stipendio a dicembre 2010 resti immutato per 3 anni fino al 2013, inizio 2013. Ebbene, sono 2 gli anni in realtà, i risparmi saranno di 6 miliardi e mezzo tra il 2011 e il 2012. Già nel primo anno, cioè l'anno prossimo, si realizzeranno minori spese per 5 miliardi e 7 nel pubblico impiego, e nel 2012 si arriverà a una minore spesa di poco superiore a 6 miliardi e mezzo, tutto incluso. 349-238-6666, allora per gli sms partiamo subito con le altre notizie in breve e poi la manovra, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, le richieste dei piccoli, intesi non solo come piccoli imprenditori, anche come piccoli artigiani, commercianti e quant'altro. Come vanno le banche? Volete sapere in borsa? Vanno abbastanza bene, Unicredit più 2,2, poi, beh, devo dire, Intesa più 2,1, ci mancherebbe, e poi le altre crescono un po' di meno, ma insomma UbiBanca più 1,70, Monte dei Paschi più 2, Popolare Milano più 1,3%. Partiamo sempre dall'economia internazionale, come va il petrolio? Beh, insomma, è a $73,90, un po' sceso. Ma praticamente il calo delle scorte americane è risultato inferiore alle attese, è sceso a 1.820.000 barili, ci si attendeva un calo delle scorte superiore, quindi il prezzo ha smesso di correre. Per quello che riguarda i consumi mondiali di energia, secondo la stima fornita da BP, British Petroleum, in queste settimane, diciamo, nell'occhio del ciclone per quello che è successo nel Golfo del Messico, comunque il BP ha stimato nel 2009 un calo dell'1,1% nella domanda mondiale di energia. Può sembrare poco, ma è la prima volta che si registra un calo nella domanda mondiale di energia dal 1982. È un evento rarissimo, sostengono gli analisti, e la dice lunga sull'entità, la durezza, anche la pervicacia di questa crisi. E poi l'ultimatum che Barack Obama ha lanciato appunto alla British Petroleum, ha detto: avete 72 ore di tempo per svelare il piano con cui volete fermare la perdita nel Golfo del Messico. Passiamo ai mercati valutari, l'euro, nuovo minimo nei confronti del franco svizzero. A metà giornata siamo a 1,374 franchi per un euro. Buone le stime invece della Banca Mondiale sulla crescita del mondo nel 2010, fra il 2,9 e il 3,3%. Secondo Ben Bernanke, numero uno della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, l'America crescerà del 3,5% nel 2010 quest'anno, e poi accelererà quanto a crescita economica nel 2011, più 5% quasi. E poi Ben Bernanke ha detto: noi aiuteremo la ripresa con tutte le azioni necessarie. La crisi europea avrà probabilmente un impatto limitato sulla crescita americana, se Wall Street riuscirà comunque a stabilizzarsi. Il mercato del lavoro resta ancora difficile, e i miglioramenti, sono sempre parole del numero uno della Federal Reserve, i miglioramenti sono ancora modesti. Sì, vedo che qualcuno si ricorda che nell'82, cioè che da quando non calava il consumo di elettricità, di energia a livello mondiale, noi vincemmo i mondiali. Bah, speriamo che sia meno di buon auspicio. Di nuovo tornano Francia e Germania a chiedere che l'Unione Europea proibisca le vendite allo scoperto, ossia il modo con cui si può guadagnare in borsa scommettendo sul calo dei titoli. Lo dico in maniera semplice, per favore non iniziamo con le critiche, sto cercando di farlo capire a tutti. Le vendite allo scoperto permettono di, con un meccanismo che ti permette di acquistare i titoli solo dopo, di guadagnare dai cali di borsa, e short selling in gergo si chiama. Soprattutto vorrebbero vietare il naked short selling, cioè quello che la vendita allo scoperto senza che il titolo venga mai posseduto, nuda per questo motivo. Allora, l'ultimo dato riguarda l'Italia. Quanto ha incassato lo Stato complessivamente dello scudo fiscale? Sono rientrati 104 miliardi di euro. L'incasso è stato per l'erario di 5 miliardi e 600 milioni, cioè dalla riapertura dei termini sono entrati altri 9 miliardi. 5 miliardi e 6 contro un gettito atteso tra i 3 e i 5 miliardi. E questa era l'ultima notizia in breve. Partiamo con il primo tema, le imprese, in questo caso le imprese artigiane, la manovra e il progetto del governo di, anche attraverso una riforma dell'articolo 41 della Costituzione, di creare un clima più facile per la libertà di impresa, soprattutto dal punto di vista burocratico, per far nascere un'impresa. La crisi ha prodotto e continua a produrre effetti drammatici sugli imprenditori e sulle loro famiglie. Ciò nonostante, continuano in Italia a nascere 1958 imprese al giorno. E nonostante il crollo dell'export, siamo riusciti l'anno scorso a vendere all'estero prodotti per un totale di 286 miliardi di euro. Lo ha ricordato il presidente Confartigianato Giorgio Guerrini nel suo intervento appunto all'Assemblea oggi, presente il presidente del Consiglio Berlusconi, il leader dell'opposizione Bersani, la presidente del Confindustria Marcegaglia. Allora sentiamo subito su questo Guerrini. Non ci nascondiamo gli effetti drammatici che la recessione ha prodotto e continua a produrre sugli imprenditori e sulle loro famiglie. Penso con angoscia ai gesti estremi compiuti da quei nostri colleghi che non hanno retto al dolore di dover chiudere l'azienda, perché l'azienda era parte integrale della loro vita, e di non poter continuare a dare lavoro ai propri dipendenti. Eppure nel nostro paese continuano a nascere quasi 2.000 imprese al giorno. Un quarto di esse sono artigiane. Un piccolo grande miracolo. Questa è l'Italia che ci piace di più. Questa è l'Italia produttiva, l'Italia dell'economia reale che non ha perso la voglia di reagire. Questa Italia siete voi che oggi riempite questa sala. Siamo imprenditori, sappiamo bene che ci sono momenti in cui è indispensabile fare sacrifici per raggiungere l'obiettivo finale. Ma una cosa vi chiediamo con forza, è che si operi velocemente e che la manovra non si indebolisca nel percorso parlamentare. Non vorremmo infatti che diventi una manovra a marcia indietro, che le misure assunte, dure ma necessarie, e necessarie in quanto dure, perdano la loro efficacia a seguito dell'apertura di un indefinito periodo di contrattazione in cui gli enti pubblici ritornino ad essere tutti essenziali, o in cui i tagli debbano essere fatti altrove e soprattutto da qualcun altro. Molto applauditi, come avete sentito, questi due interventi del presidente Confartigianato Guerrini, sia sulla capacità, nonostante la crisi delle imprese, di essere vitali, la vitalità delle imprese, per meglio dire, e dall'altro, insomma, no a una marcia indietro nella legge finanziaria che non venga indebolita in sostanza dall'assalto alla dirigenza come che spesso avviene in Parlamento. E poi il progetto della libertà d'impresa. Che cos'è? Allora, qui c'è un disegno di legge chiamato Progetto Vignali, presentato inizio a novembre 2009, che tra l'altro ha raccolto il sostegno di 130 parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione, e punta ad ampliare i diritti per le imprese previsti dall'articolo 41. È dedicato soprattutto alle piccole e medie imprese, poi chiaramente si applicherà a tutte, ma insomma la parte più importante è per le piccole e medie. Prevede per esempio che vi sia un'imposizione massima fiscale su un'impresa al 45% degli utili, non di più, e poi differenziare la tassazione tra gli utili che vengono ottenuti e gli utili che vengono invece reinvestiti, che dovrebbero essere tassati di meno. l'impossibilità per lo Stato di pretendere versamenti se è debitore di un'azienda. Lo Stato deve 60 miliardi di euro alle imprese italiane di servizi o beni che hanno già erogato e il credito è ancora lì che aspetta e i soldi non arrivano, paga almeno a 180 giorni lo Stato. Ecco, si chiede appunto di non poter esigere poi tributi fiscali se ancora sei un mio debitore. E poi i rapporti con la pubblica amministrazione, il silenzio ha senso come introduzione sistematica, cioè o la pubblica amministrazione mi risponde oppure per me quella che è la mia richiesta è passata, questo vuol dire silenzio ha senso. Eliminare i duplicati dei certificati, no? Quelli che insomma, sappiamo i passaggi che devono essere fatti, saranno tutti depositati nella Camera di Commercio. Tante altre cose, come un sostegno anche alle piccole e medie imprese, cioè lo Stato dovrebbe dare alle PMI il 50% degli incentivi per innovazione. Insomma, è un disegno di legge che ha il sostegno di 130 parlamentari di maggioranza e opposizione. Ci auguriamo che a questo punto l'iter sia più veloce del solito. Sentiamo che ne pensa, che cosa ha detto il presidente del Confartigianato Guerrini proprio sulla modifica dell'articolo 41 e l'idea di arrivare a nuove norme sulla libertà d'impresa. La semplificazione burocratica è la grande rivoluzione che ci aspettiamo e che insieme alla riduzione della pressione fiscale è in testa alle aspettative dei nostri imprenditori. Ed è per questa ragione che condividiamo ed apprezziamo la rivoluzione liberale proposta in questi giorni dal Governo. Misure straordinarie per la libertà d'impresa che prevedono anche attraverso la modifica dell'articolo 41 della Costituzione la sospensione prima sperimentale e poi a regime delle autorizzazioni per le piccole e medie imprese, la ricerca e le attività artigiane. Lo ripetiamo da anni. Liberiamo l'impresa dai lacci e dai laccioli della burocrazia. Recuperiamo questo grave ritardo rispetto all'Europa, eliminando i controlli ex ante sull'attività d'impresa a favore del rafforzamento dei controlli pubblici ex post, così come avviene in moltissime democrazie liberali. Ma che cos'è questo articolo 41 della Costituzione, da molti evocato? Insomma, l'articolo 41 della Costituzione è quello dedicato alle imprese, scritto per carità nel 1946, per cui in un periodo diverso, ma che cosa dice? Ve lo leggo e ve lo recito per esteso. Recita: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. E non è un mistero che, insomma, adesso ascolteremo il Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale dice dovremmo toccare l'articolo 41. Secondo alcuni opinionisti, che avete letto immagino anche in questi giorni, in realtà non è necessario, per snellire burocraticamente quello che è il percorso burocratico, diciamo, delle imprese, toccare l'articolo 41. Perché lo dico? Perché sappiamo che riformare una norma costituzionale prevede un iter lunghissimo e c'è chi, lo dico per citare tutte le opinioni, ha il timore che, diciamo, dire che bisogna cambiare l'articolo 41 sia un modo per prendere tempo e per in realtà non arrivare a una riforma, è uno snellimento subito. Si può fare uno snellimento, secondo molti osservatori, anche senza dover imbastire tutto il percorso che porta poi alla modifica di un articolo della Costituzione. Comunque, Berlusconi ha detto che è un inferno governare con le regole della Costituzione. Ha detto infatti: il governare e fare le leggi visto da dentro è un inferno, non è che manchino le intenzioni, i buoni progetti, ma è l'architettura costituzionale che rende difficilissimo trasformare progetti in leggi concrete. E questo, va detto, vale per tutti i governi, non solo per il governo Berlusconi. La Costituzione esiste dal 1946. E poi ha aggiunto il Presidente del Consiglio: l'Italia è tra i paesi europei in cui è più difficile fare impresa e questo è dovuto alla cultura comunista che dagli anni 70 è stata dominante e che guarda con sospetto agli imprenditori. In Italia non ci sono solo l'oppressione giudiziaria e l'oppressione fiscale, c'è anche, come sapete bene, vi confrontate tutti i giorni, una enorme oppressione burocratica. Siamo il paese del mondo con il più alto tasso di imprenditori, ma anche quello tra i paesi europei in cui è più difficile fare impresa. E perché? Perché dagli anni 70 la politica italiana è stata dominata da una certa cultura, per parlare chiaro, la cultura comunista, improntata al sospetto verso l'uomo e le sue iniziative. Se uno fa impresa, per loro è un truffatore per definizione, un evasore per definizione, uno sfruttatore degli altri per definizione. E allora, secondo le parole del Presidente del Consiglio, appunto, è difficile governare perché c'è la Costituzione, l'architettura costituzionale, poi è difficile fare imprese in Italia perché dagli anni 70 c'è una cultura comunista dominante. Non leggo gli sms di carattere politico in un senso o nell'altro, noi ci occupiamo di economia, di dati, di numeri, su questo, per cui insomma anche chi scrive, beh, è sempre colpa di qualcun altro, sono giudizi politici, esistono altri programmi per dare giudizi politici nel massimo rispetto degli altri programmi, quindi non è di questo che ci occupiamo. Continuiamo, perché sempre il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto lo statuto per le piccole e medie imprese sarà legge entro l'autunno. Vogliamo fare una rivoluzione nel rapporto tra lo Stato, cioè la pubblica amministrazione, e le imprese, passare cioè dal sospetto alla fiducia. E questa è in sintesi la proposta di legge che il Presidente ha ricordato per lo statuto delle imprese e che lo stesso Presidente vostro ha definito una rivoluzione copernicana. Voi la conoscete, immagino, questa proposta, non sto a dirvela, ci sono i diritti verso lo Stato e l'amministrazione pubblica, la certezza della norma, il silenzio a senso sistematico, la certificazione privata come sostituto del controllo pubblico, la divisione degli appalti in lotti a una quota riservata alle piccole imprese, poi diritti speciali per le micro e piccole imprese e per le nuove imprese, ancora diritti verso il fisco come un limite alla tassazione complessiva, forme semplificate di corresponsione delle tasse per le piccole imprese, una riserva del 50% degli incentivi per l'innovazione e l'internalizzazione delle piccole imprese e un maggiore favore per le imprese che operano in rete. E noi ci impegneremo per farlo diventare legge, questo statuto, entro l'autunno. Vogliamo arrivare a un nuovo sistema per cui non si debbano chiedere più permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, che sono per me un linguaggio e una pratica da Stato totalitario. Allora, quindi confermata dal Presidente del Consiglio l'intenzione di arrivare entro l'autunno all'approvazione del disegno di legge Vignali. Ripeto, ci sono 130 parlamentari che l'hanno già approvato sia dalla maggioranza che dall'opposizione, quindi non dovrebbe essere difficile, le regole le abbiamo già lette. Molti di voi continuano a chiedere: ma perché per arrivare a una semplificazione burocratica per fare impresa bisogna riformare la Costituzione? Onestamente non l'ho capito nemmeno io, cioè, ripeto, alcuni osservatori dicono: attenzione, si può anche fare riformando tutte le procedure richieste, per esempio il silenzio assenso non penso debba passare attraverso una modifica costituzionale, ma ripeto, è una... non ne sono certo. Ascoltiamo, anzi facciamo una cosa, andiamo in pubblicità meteo e poi sentiamo proprio il Presidente del Consiglio Berlusconi sulla Costituzione datata e sulla necessità di riformare l'articolo 41, la risposta del leader del PD Bersani e poi invece altri commenti, penso quello per esempio della numero 1 di Confindustria Emma Marcegaglia e del numero 1 di Banca Intesa Corrado Passera. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 perché ho detto non parliamo di politica ma di economia. È chiaro che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi sono di carattere economico, si riferiscono alla legge sulla libertà di impresa, ed è chiaro che adesso ascolteremo anche quelle di Bersani e di altri esponenti. Il mio messaggio era rivolto a chi scriveva sostanzialmente commenti politici del tipo dà sempre la colpa agli altri, ecco, questo di carattere economico ha nulla. Altra cosa è invece, leggo altri messaggi in questo senso, dire ma perché bisogna cambiare l'articolo 41 per semplificare le procedure burocratiche per la creazione di un'impresa. Non l'ho capito nemmeno io, ma non l'ho capito nel senso che ammetto tutta l'ignoranza nel non averlo capito. Secondo me la legge del senza senso, per esempio il progetto Vignali non ha bisogno di una modifica della Costituzione, per quello che ho capito, quindi chiedo venia in anticipo per eventuali inesattezze. Il timore che hanno alcuni, che si registra anche sui messaggi, è che andare a toccare l'articolo 41 sia un modo per prendere tempo e allungare i tempi. Però ripeto, oggi Berlusconi ha detto che entro autunno lo statuto del PMI sarà legge, quindi il disegno di legge Vignali, per cui vedremo. Detto questo, sentiamo appunto Berlusconi sulla necessità di cambiare la Costituzione, Costituzione che ha definito un inferno, perché ricordo che ha detto è un inferno governare con le regole della Costituzione, e appunto sulla difficoltà di fare imprese invece la colpa è che dagli anni 70 c'erano i comunisti. Comunque Berlusconi sulla riforma dell'articolo 41. Pensiamo che ci sia bisogno anche di riscrivere l'articolo 41 della Costituzione. Di certo vogliamo allargare gli spazi di libertà che questo articolo riconosce alle imprese, ed è l'unico nella Costituzione, perché non abbiamo sotto questo profilo nessuna remora a dire che la Costituzione è una Costituzione molto datata. Nella Costituzione si parla molto di lavoro, ma quasi mai di impresa, che è citata solo all'articolo 41, e mai una sola volta viene citata la parola mercato. Quanto alla libertà d'impresa è sì riconosciuta, ma con una serie di vincoli che con il tempo sono diventati, come sapete, una montagna inestricabile di lacci e di laccioli. Così il Presidente del Consiglio. Adesso veniamo alle reazioni. Vedo molti messaggi che dicono beh, ma insomma in questi 50 anni però l'Italia ha potuto fare crescere economicamente, sviluppare milioni di imprese, per cui l'articolo 41 non era il problema. Evidentemente sì, alcuni citano anche il fatto che anche il Presidente del Consiglio abbia sviluppato le sue imprese in questi anni, e quindi l'articolo 41 non era un problema nemmeno in questo caso. Diciamo che nel frattempo si sono aggiunte però, con per motivi di legge, non di Costituzione onestamente, leggi continue che hanno aumentato il carico burocratico per chi vuole aprire un'impresa di qualunque tipo in Italia, hanno aumentato il carico delle procedure, 80 è un modo di dire, ci sono almeno 8 passaggi, appunto basterebbe introdurre il silenzio assenso della pubblica amministrazione che se non risponde in un tempo utile uno va avanti e a questo punto è come se mi avessi risposto, cioè cavoli tuoi se non riesci a rispondermi. Io la domanda la faccio, tu non mi rispondi in 90 giorni, io vado avanti perché do per acquisito il tuo nulla osta. Già questo semplificherebbe moltissimo la possibilità di fare impresa, Costituzione e comunisti a parte. Pierluigi Bersani sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla Costituzione. Lui fa sempre così quando comunque deve deviare l'attenzione da quello che lo preoccupa di più. Cioè lui adesso sa che questa manovra chiude col giorno delle favole. Gli rispondo, tu hai giurato sulla Costituzione. Se non ti piace, vai a casa. Ti ricordo che stai alzando all'85% la percentuale di invalidità per prendere una cosa. Se non teniamo legati questi, oppure che quello là, che c'ha il problema dell'invalidità, veda tutto questo come un frastuono che gli interessa poco. E ancora Pierluigi Bersani sulla manovra, quindi sulla legge finanziaria uscita dal Consiglio dei Ministri, occorre modificarla secondo il leader del PD, altrimenti da qui a un anno saremo da capo. Il grosso colpisce i redditi medi, i redditi bassi e anche fasce di povertà. Un'altra manovra è possibile. Sì, voglio tassare le rendite finanziarie, sì. E voglio tassare in modo giusto anche le rendite patrimoniali, sì. e voglio fare una lotta all'evasione fiscale non a chiacchiere ma a fatti. Sì, tutto quello che prendo qui, io voglio metterlo a riduzione del carico su lavoro e impresa, perché nella mia testa c'è l'idea che se non cresciamo un po', noi non aggiusteremo mai questo paese qui. E per crescere un po' bisogna alleggerire il lavoro e l'impresa, fare un po' di investimenti, eccetera, eccetera. È ora di dire così e di fare così, perché se non si fa così, io faccio un pronostico e ho paura di prenderci, da qui a un anno o forse anche prima, siamo da capo, dopo aver dato un'altra botta a redditi medio-bassi e al lavoro e agli investimenti. Così Pierluigi Bersani, adesso il traffico, poi parliamo di borsa, ascoltiamo ancora un paio di commenti sull'intervento di Silvio Berlusconi, poi la borsa che ha chiuso bene, più 2% Milano, come Parigi e Londra, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Allora, il commento all'iniziativa, soprattutto quella di arrivare a una semplificazione amministrativa burocratica per creare una nuova impresa, il commento della presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che ha apprezzato l'impegno appunto di Berlusconi per arrivare a una semplificazione. Condiviso, ho anche apprezzato quanto ha detto il presidente Berlusconi su questo impegno a una semplificazione molto forte, a partire dallo statuto per le imprese, per poi seguire con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione. E questo era l'ultimo commento dell'Assemblea di Confartigianato, poi tanto domani troverete tutte le analisi politiche, i commenti, le reazioni politiche sui giornali. Adesso noi ci occupiamo di borsa, lo facciamo come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, più 2% Milano, praticamente una chiusura sui massimi mi sembra, adesso vado a... così a giudizio, Parigi più 2, Francoforte più 2, Londra più 1,15, c'è stato un buon recupero nel finale, più 1,1 anche in questo momento l'America col Dow Jones, euro a quota 1,20,40. E allora andiamo sui titoli. Molto bene, oggi in borsa, tra vari titoli, Buzzi Unice in più 5,20, e poi ST Microelectronics più 4,1, Finmeccanica più 4, Autogrill più 3,60, Impregilo più 3,40, Pirelli più 3,30, Saipem più 3 come Exor. Quindi Buzzi, Italcementi, settore costruzioni, ma anche ST Microelectronics e Autogrill. Prego. Sì, come dicevi tu, un colpo di rene nel finale che ha allargato la forbice dei guadagni, specie per i titoli che citavi. Volano i titoli delle costruzioni con Buzzi e Italcementi, che sono stati promossi dalla banca d'affari UBS con un buy, quindi una raccomandazione a comprare, ma che erano anche calati molto nei giorni scorsi, avevano perso più del 10% entrambi i titoli nel giro di poche sedute, dunque insomma acquisti per ricoprirsi dalle perdite precedenti. ST guadagna grazie alle stime migliorate di Texas Instruments, di una concorrente, dunque gli operatori presumono che anche ST possa migliorare le proprie stime sull'utile e sulla produzione di quest'anno. Impregilo vola anche perché, secondo le indiscrezioni pubblicate oggi al Sole 24 Ore, si andrebbe verso un rinnovo biennale del patto di sindacato, che come sappiamo raggruppa i Benetton, Gavi e Ligresti, che darebbe insomma nuovo impulso e una certezza maggiore al business del General Contract. Su Finmeccanica c'è una commessa da 140 milioni in America, di cui hanno anche scritto i giornali. Sì, 140 milioni che vengono dagli Stati Uniti, nuove commesse dell'esercito per 68 milioni, della Marina 72 milioni, quindi in tutto 140 milioni, un rialzo quello di Finmeccanica che insomma getta una leggera schiarita per una società che ultimamente è stata diciamo protagonista di alcune sì, più sul fronte giudiziario. Che sul fronte diciamo finanziario, più sul fronte giudiziario, vedremo poi. Allora, mentre abbiamo scoperto oggi che il Gruppo Espresso non presenterà un'offerta per il quotidiano Le Monde, che versa in cattive acque e deve essere ricapitalizzato, tra chi è andato bene, cito anche, oltre ai già detti, Unicredit più 2,80 come Geox e anche Intesa San Paolo. il 2,5 l'ha guadagnato Mediolanum, ma anche Ciri, il 2,4 Fiat, ma anche Atlantia, il 2,3% è il rialzo di Italcementi, appunto, ma anche del Banco Popolare e del Monte dei Paschi, più 2% guadagnano UbiBanca, Ansaldo e Azimut. Chi ha perso? Beh, Telecom Italia ha perso in una giornata in cui insomma tutti gli altri guadagnavano, meno 0,34%. Il vero punto, mi sembra, cioè, è che il titolo è ai minimi da un anno e di più di un anno, perché 88 centesimi di euro è veramente poco per Telecom. Sì, sì, prima parlavamo di colpo di rene della borsa che ha anche praticamente annullato le perdite di Telecom, perché per tutta la seduta perdeva più di un punto. Qui il problema, Telecom ha perso oltre l'8% nelle ultime quattro sedute, è quello della governance, anche del ruolo di Telefonica, perché c'è sempre questo doppio ruolo di concorrenti e azionisti da parte di Telefonica e in Telecom, esacerbato proprio in questo momento in cui Telefonica sta cercando di conquistare l'operatore brasiliano Viva. A questo punto poi gli operatori si chiedono cosa farà Telefonica in Telecom se veramente riuscisse a conquistare Viva. Ricordiamo che uno dei principali business di Telecom è proprio in Brasile. Ancora bene tutto il comparto energia. Tutto il comparto energia, ma questo l'avevamo anche fatto capire all'inizio del programma, perché i consumi di petrolio sono risultati in calo o più in calo rispetto alle attese. Da noi devo dire che però Eni alla fine ha chiuso con 1,5% di rialzo, bene anche Terna più 1,40%, migliori e peggiori in assoluto, Ross più 15,80%, Mondadori sulle ordinarie più 12%. Qualche novità su Mondadori, una battuta che siamo in chiusura? Ma non, gli operatori non segnalano nulla di particolare, bisognerebbe... È più 12% però, 11,6 bisognerebbe guardare se c'è stata qualche indicazione a livello di dividendo futuro. L'Espresso molto bene, anche l'Espresso più 9,60%, Richard Genori più 6,80%, lì però sull'Espresso forse la rinuncia alle Monde. Sì, forse l'esborso che si presentava poteva essere considerato diciamo impegnativo per un settore dei media che comunque ultimamente è sotto pressione. Bene anche Green Vision più 7,5%, e invece sul fronte opposto Poligrafici Editoriale meno 3,80%, Bastoggi meno 3,40%, Danone meno 3,70%, Meride meno 3,60%, Vivendi meno 2,90%. Grazie a Ciao Condina, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi torniamo per parlare anche di libertà di comunicazione d'impresa, di mondiali e soprattutto di questo dato dell'ARA che dimostra come in questi 10 anni gli stipendi del pubblico impiego siano cresciuti ben più degli stipendi del settore privato. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per toccare e parlare di altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Non torneremo più, lo dico a chi sta scrivendo, al 349-238-6666 sulla assemblea di Confartigianato e sulla dichiarazione del Presidente del Consiglio, snellimento burocratico, Costituzione come un inferno per chi governa, riforma dell'articolo 41. Adesso vedremo, magari nei prossimi giorni cercheremo anche colui che ha proposto e che il disegno di legge che porta il suo nome, mi riferisco al disegno di legge Vignali, appunto quello per lo snellimento burocratico per chi vuole fare impresa. Attenzione, al di là dei giudizi politici che, ripeto, non interessano questo programma, è indubbio che il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione debba essere da un lato snellito, dall'altro semplificato e reso anche più trasparente. E questo vuol dire non solo i 60 miliardi che le imprese italiane si aspettano dalla pubblica amministrazione per servizi e beni già offerti, 60 miliardi. E si è chiesto anche lì di poter almeno avere uno sconto fiscale, cioè che questi vengano considerati come un anticipo fiscale, o perlomeno che attraverso la SACE si arrivi a certificare che lo Stato deve questi soldi alle imprese, in modo che l'impresa possa andare in banca e dire: io ho la garanzia che questi soldi mi verranno dati, dammi un prestito, non dico equivalente, ma insomma considera che io devo incassare questi soldi per certo. Ma c'è anche tutto l'aspetto che riguarda i tempi che ci si mette in Italia per fare impresa, che sono obiettivamente inaccettabili, tutte le richieste, i passaggi burocratici. Ripeto, la legge La norma sul silenzio assenso sarebbe una vera rivoluzione prevista nel disegno di legge Vignali. 90 giorni di tempo per la pubblica amministrazione di qualunque livello, enti locali, comuni, province, regioni, Stato, per dire se va bene questa richiesta oppure no. Se non rispondi è come se tu avessi detto di sì. E poi questo è anche un rapporto più corretto tra imprenditore e pubblica amministrazione. E poi l'impossibilità per lo Stato di pretendere dei versamenti fiscali se io sono debitore di un'azienda. Vabbè. Comunque cambiamo tema, o meglio restiamo nel rapporto pubblico-privato, ma per un altro tema, c'è l'ARAN, che è l'agenzia che per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha fatto il calcolo di come sono andate le retribuzioni del pubblico impiego da un lato e del settore privato dall'altro negli ultimi 10 anni, e ha scoperto che le retribuzioni del settore pubblico sono aumentate in 10 anni di quasi il 40%, più 39,7%, nel privato di meno, molto meno, quasi il 15% in meno, cioè il 25%. Quindi 40% l'aumento delle retribuzioni nel settore pubblico, 25% l'aumento delle retribuzioni nel settore privato negli ultimi 10 anni. Sempre l'ARAN ha stimato che con il blocco dei salari del pubblico impiego, cioè lo stipendio del dicembre 2010 resterà immutato fino al gennaio, se abbiamo ben capito, del 2013, lo Stato risparmierà 6 miliardi e mezzo e quindi di minori spese, in particolare già 5 miliardi e 7 nel primo anno, per arrivare appunto a 6 miliardi e mezzo. Tutto questo ce lo racconta la nostra Valentina Furlanetto. Le buste paga degli statali sono cresciute negli ultimi 10 anni più di quelle dei dipendenti del settore privato. Si legge nero su bianco in un'anticipazione del rapporto semestrale dell'ARAN sulle retribuzioni del pubblico impiego. L'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, scrive che le amministrazioni pubbliche hanno avuto dal 2000 ad oggi una crescita delle retribuzioni pari al 39,7%, a differenza di quelle del settore privato, dove i salari sono aumentati del 25,7%. Nell'ultimo biennio, invece, i contratti di lavoro nel pubblico impiego si sono chiusi in linea con il tasso di inflazione programmata, più 3,2%. L'ARAN inoltre ha diffuso alcune stime degli effetti della manovra per quanto riguarda il blocco dei contratti. Lo stop agli aumenti comporterà minori spese per circa 6,5 miliardi di euro tra il 2011 e il 2012. In particolare, già nel primo anno si realizzeranno minori spese per 5,7 miliardi, fino a giungere nel 2012 ha una minore spesa di poco superiore ai 6,5. Secondo il commissario dell'agenzia, Antonio Naddeo, il blocco dei contratti realizzerà, insieme alle altre misure, una sostanziale parità delle curve di crescita retributiva tra il pubblico e il privato nel 2013. Questi dati, quindi diffusi oggi dall'ARAN, insomma, dati che coprono 10 anni di periodo temporale. Volete sapere cosa fanno le borse? Ripeto, l'America sta andando bene, più 1,1%, e l'Europa ha chiuso con rialzi vicini al 2% nel caso di Parigi, Francoforte, del 2% a Milano, l'euro a quota 1,20,38. Adesso il traffico e poi un tema molto delicato di cui non riusciamo spesso ad occuparci, e cioè come dopo questa crisi le imprese, anche e soprattutto finanziarie, quindi banche, fondi di investimento, SGR, quello che volete, possono ricostruirsi una reputazione, un'immagine attraverso la comunicazione. È indubbio infatti che questa crisi abbia portato, a ragion veduta, anche a un danno di immagine nel settore finanziario, anche in chi non era obiettivamente coinvolto in questo. Ne parliamo tra un minuto. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, la reputazione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle banche e anche dei grandi soggetti, tema delicatissimo. Pensate a quanto sia importante la reputazione, la fiducia, l'immagine che un soggetto, un'impresa, ripeto, sia finanziaria che manifatturiera, proietta quando devi andare a chiedere soldi sul mercato, vuoi con un aumento di capitale o agli azionisti, dico, oppure con un aumento o con un'emissione obbligazionaria ai normali risparmiatori. Se ti fidi di questo soggetto, glieli presti, se no non glieli dai. Si è discusso di questo, ossia proprio di trasparenza e comunicazione nel mondo della finanza, al Festival dell'Economia di Trento in occasione dei 40 anni della FERPI, che è la federazione che riunisce i responsabili delle relazioni pubbliche in Italia. Allora siamo in collegamento con Gianluca Comin, che è presidente della FERPI. Buonasera. Buonasera a te. Allora Gianluca, tu tra le altre cose sei anche il direttore delle relazioni esterne dell'Enel, quindi grande gruppo italiano, ma come ricordavo si è parlato di comunicazione finanziaria al Festival dell'Economia di Trento che si è appena concluso, il nostro Simone Spezia ve l'ha raccontato in questi giorni. Prima domanda, fermo restando che se i comportamenti non diventano corretti tu puoi comunicare quello che vuoi, ma la reputazione te la bruci comunque, qui c'è stato un danno enorme nell'immagine del mondo finanziario nel suo complesso, anche le banche virtuose ne sono state danneggiate, anche le società di gestione, i fondi corretti ne sono usciti massacrati, cioè non ci si fida più di quello che è l'atteggiamento e il comportamento del mondo della finanza. Siccome sappiamo che se anche cambiano i comportamenti poi le percezioni restano più a lungo, un po' come capita con le persone, no? Ti fai un'idea di uno, prima di cambiarla ci metti un po', lì si inserisce la comunicazione. Quali sono le strategie che voi avete analizzato per migliorare un'immagine assolutamente deteriorata della finanza? Ripeto, perché vedo già i messaggi, fermo restando che prima devi migliorare i comportamenti, poi li comunichi. Senza dubbio, oggi misuriamo un profondo calo della fiducia dei risparmiatori e dei clienti nei confronti del sistema finanziario, ma non solo, anche di tutto il sistema economico, che deriva evidentemente da alcuni comportamenti che ci sono stati in banche, devo dire non italiane fortunatamente, ma che importanti istituzioni finanziarie internazionali. Questo, come dire, richiede un'azione che è già in corso dai maggiori istituti bancari, ma non solo, anche delle grandi corporation, dalle grandi società industriali italiane e mondiali, che è quello di recuperare una reputazione che è necessaria per creare quel valore di fiducia che c'è tra l'azienda e i suoi stakeholders. C'è da dire che chi ha investito in comunicazione, in corporate social responsibility, chi ha aggiunto ai comportamenti corretti anche un'immagine positiva ha sofferto meno questa crisi e nei confronti dei propri clienti, dei propri stakeholders, c'ha un vantaggio rispetto a quelle società che invece nel passato non hanno investito in comunicazione. Ma quali sono le chiavi della ripresa, del recupero della fiducia? Beh, innanzitutto la trasparenza. Il cittadino, il consumatore, il cliente, lo stakeholder richiede un rispetto della credibilità e della trasparenza assoluta. Secondo luogo, la continuità nella comunicazione. Non si può pensare di intervenire con un'efficace comunicazione solo quando il danno è fatto. La comunicazione come la Croce Rossa è un modo antico di affrontare queste tematiche, invece la comunicazione oggi nelle istituzioni più virtuose partecipa alla strategia di posizionamento dell'immagine della società. Terzo aspetto, la qualità dell'informazione che è sia finanziaria sia commerciale, e per qualità intendo a un modo di parlare ai propri stakeholders in maniera corretta, in maniera efficace, con strumenti innovativi, perché sempre di più non sono i clienti o gli stakeholder che vanno a cercare l'informazione, ma deve essere la società che va a cercare i propri interlocutori per potergli parlare in modo più efficace. Dunque, trasparenza da un lato, e mi interessa soprattutto anche il tema, la trasparenza diciamo dovrebbe essere un requisito etico, però sappiamo che spesso non è così, della continuità nella comunicazione. Dico subito anche a chi scrive che stiamo parlando poi di conseguenze molto concrete. Se poniamo Fiat, Unicredito, Enel, Eni, Snam, Retegas non avessero goduto di una buona credibilità e reputazione in generale, non sarebbero certo riuscite a collocare le obbligazioni che hanno collocato. Cioè voglio dire, la fiducia e la credibilità poi si concretizza in cose molto concrete come un'emissione obbligazionaria a chi te la sottoscrive, un aumento di capitale a chi te la sottoscrive, chi compra il tuo titolo in borsa. Lo dico così, se pensi proprio nell'anno nero che è stato il 2009, tutte queste istituzioni di cui hai parlato hanno fatto delle importanti emissioni, hanno fatto, hanno richiesto al mercato un atto di fiducia che si è dimostrato anche più ampio di quello che si aspettavano. E quindi, come dire, l'investimento che era stato fatto nel passato di una relazione positiva con i propri azionisti, in questo caso, ha portato i frutti. Ma ti dirò di più, che sempre di più l'azionista non richiede solo un'informazione, come diciamo, tecnica, cioè quali sono i risultati che trimestralmente la società consegna al mercato. Sempre di più i nostri azionisti richiedono che tu gli faccia vedere qual è la strategia, quali sono le aspettative che la società pone in essere per raggiungere dei risultati. Questo è un grande passaggio che non spesso viene colto, no? Ci si limita a rispettare le regole che dà la Consob, che dà la Borsa Italiana, le regole del buon senso, dell'autodisciplina della società, ma non si aggiunge un qualcosa che crea un'affezione, un attaccamento dell'azionista o del risparmiatore verso il tuo titolo. E su questo devo dire che poi la continuità, lo dico in questo caso proprio da giornalista, la continuità è fondamentale, cioè avere dei rapporti significa poi sapere anche leggere meglio e gestire meglio anche per noi le situazioni di crisi. Altra cosa è invece che tu non esista come soggetto, poi hai un problema, ti inventi un consulente della comunicazione che arriva, bombarda i giornalisti, ma senza un rapporto e un vissuto precedente. Sono cose che pesano come in qualunque tipo di professione, insomma i rapporti personali pesano, anche perché appunto da lì si deriva credibilità, trasparenza, affidabilità e, oppure l'opposto, si deriva anche un senso di non fiducia. Ma insomma i rapporti personali e la comunicazione deve essere continuativa. Troppe volte, lo diciamo sempre quando ci viene chiesto, le imprese comunicano in maniera spot, cioè quando c'è bisogno o perché lanciano un prodotto o perché sono in difficoltà e sono sotto attacco, e poi scompaiono, tornano in immersione. Non è un esempio di continuità. Ancora una domanda, Gianluca Comin, che riguarda invece come migliorare la tua immagine come impresa, come società, come settore, se è profondamente danneggiata. Spesso le imprese cercano di utilizzare la corporate social responsibility, insomma la responsabilità sociale di impresa, fare qualcosa di buono per la collettività, per ridarsi un'immagine, ridipingersi un'immagine. Voi avete scoperto invece che insomma, l'elemento migliore, quello che dà maggior successo, è che cosa, se vuoi ricostruire un'immagine da zero? Ma sai, devi lavorare su molti assi, no? Certamente quella della corporate social responsibility è un'area importantissima, se non diventa un bel bilancio di sostenibilità con tante belle foto ma niente dentro. Grazie a Gianluca Comin, in questo caso presidente della Ferpi. Grazie a voi, buona serata. Ed è veramente l'ultima cosa per questa, è l'ultimo tema di questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berizzoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi per parlare, oggi non ce l'abbiamo fatta, anche del giro d'affari dei mondiali di calcio e soprattutto per le imprese italiane. A domani. Radio 24, la passione si sente.